bimba mia, sei come un flipper, se ti sfioro con le mie mani, tu ti accendi, risplendi vertiginosamente, mi dai 10, 20, 100, 1000 baci. Bimba mia, sei come un flipper, cerco in vano di dominarti, ma mi sfuggi vibrando vertiginosamente, mi dai 10, 20, 100, 1000 illusioni. Nell'ansia di tenerti ti stringo più forte e più forte, rischiando di partire. E quando questo avviene nel buio insieme, insieme, io credo di impazzire. Bimba mia, sei come un flipper, tu mi attendi ogni domani per tentarmi, stregarmi vertiginosamente coi tuoi 10, 20, 100, 1000 baci. Bimba mia, sei come un flipper, se ti sfioro con le mie mani, tu ti accendi, risplendi vertiginosamente, mi dai 10, 20, 100, 1000 baci. Bimba mia, sei come un flipper, tu mi attendi ogni domani per tentarmi, stregarmi vertiginosamente. Bimba, bimba, bimba mia, come un flip, come un flip, come un flipper, mi dai 10, 20, 100, 1000 baci.